Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ormai lo sappiamo. Il destino, la sorte, gli incontri, le scelte possono cambiare la vita delle persone. Una porta si apre, mille si chiudono. Non sempre è possibile tornare indietro. L'uomo essenzialmente vive delle proprie decisioni, vive di questi incontri e di questi scontri. Non è facile, però, continuare a vivere quando nel proprio destino si incontra semplicemente il male, la malvagità assoluta, gratuita, inspiegabile, fine a se stessa. Non è facile guardare il male negli occhi e tirare dritto. Non si può tornare indietro. E spesso è altrettanto difficile andare avanti. Il nostro primo protagonista di oggi è uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, Roman Polanski. Roman Polanski. Polanski nasce in Francia il 18 agosto 1933 da una famiglia ebraica di origine polacca. Nel 1936 i Liebling, questo il vero cognome di Polanski, tornano a Cracovia per sfuggire al dilagante antisemitismo, ma a causa dell'invasione nazista vengono rinchiusi nel ghetto della città. Roman riesce a fuggire, ma la madre viene deportata ad Auschwitz, dove muore. Il padre, invece, sopravvive al campo di concentramento di Mauthausen. Roman diventa cattolico all'età di 10 anni. They want to take my sister. I nazisti volevano prendere mia sorella. Invece mia madre si offrì e si fece prendere al suo posto. Finì ad Auschwitz e morì. Ho scoperto alla fine della Seconda Guerra Mondiale che era stata uccisa con il gas nelle terrificanti docce di Auschwitz. Fin dall'infanzia, Polanski è costretto a vivere sulla sua pelle la tragedia universale del nazismo, delle ideologie violente, antisemite, totalitarie, che ritorneranno a colpirlo anni dopo. La tragedia dei campi di concentramento, la sistematicità della barbarie cui viene sottoposto il suo popolo, lasciano in lui, come in centinaia di altri intellettuali ebrei, un vuoto incolmabile, una cicatrice vistosa, destinata a non rimarginarsi più. Al termine della guerra, Roman Polanski studia recitazione, teatro e regia, concludendo la sua formazione nel 1959 a Cracovia. Il primo lavoro degno di nota è come attore nel film Una generazione del maestro polacco Andrzej Wajda nel 1955. In quel periodo pensavo prevalentemente a una carriera come attore. Non pensavo di passare dietro la macchina da presa. Poi mi si presentò l'occasione e siccome mi piaceva scrivere, raccontare storie, provai a farlo attraverso le immagini. Nel 1955 si cimenta con Rower, un film semi-autobiografico di cui è anche protagonista. Successivamente gira diversi cortometraggi che attirano l'attenzione di qualche produttore. Nel 1959 sposa Barbara Less, dalla quale divorzierà nel 1962. La sua vita sentimentale è tormentata e inquieta. Il mio primo film importante è Il coltello nell'acqua, del 1962, che fu anche un buon successo a livello nazionale, considerando anche le medie del mercato polacco. Diciamo che, sebbene il tema non fosse la guerra, il tema più frequente nel cinema polacco, c'era una certa vocazione all'oscurità, a temi cupi, che erano il mio modo di parlare di quello che mi era successo nell'infanzia. Compagni, avanti il gran partito. Il coltello nell'acqua è un film fortemente metaforico, girato con pochi mezzi e interamente risolto nell'arco cronologico di 24 ore sull'unico spazio scenico di una barca a vela, rovescia le inquietudini politiche e storiche della Polonia dell'epoca in un racconto ad altissima tensione dialettica. Il genere del thriller psicologico viene subito utilizzato da Polanski come schema per interpretare la realtà, la dura realtà della Polonia comunista. Negli anni 60, la Polonia in cui vive Polanski è immersa in un altro totalitarismo di matrice diversa rispetto all'efferata parentesi nazista, ma comunque duro e problematico. È il regime comunista. È il Patto di Varsavia, che riunisce in un'alleanza forzata 8 paesi dell'Europa orientale. Dopo il drammatico prologo dei fatti d'Ungheria del 1956, negli anni 60, i paesi del Patto di Varsavia a turno cominciano ad essere attraversati da venti di libertà, da pulsioni innovatrici. sono solo i primi semi di qualcosa che germoglierà anni dopo e che per il momento ha il suo punto più alto nella primavera di Praga. Dimmi chi era che il corpo portava, la cinta intera che l'accompagnava, la città intera che muta lanciava una speranza nel cielo di Praga. Cielo di Praga, una speranza nel cielo di Praga. Nonostante la durezza del regime verso gli intellettuali liberi come Polanski, il regista è molto legato alla cultura della sua terra. Mi sento molto vicino alla cultura polacca, al mio paese, alla sua storia. È qualcosa di cui non mi sono mai voluto liberare e di cui non mi libererò mai. Si ritrova in tutti i miei film. Il coltello nell'acqua, il primo vero film di Polanski, gode di un ampio successo commerciale e di critica nei cinema occidentali, ma viene osteggiato e criticato dal regime comunista. In America ottiene addirittura la candidatura al premio Oscar al miglior film straniero, la prima nella carriera di Polanski. Il primo cinema di Polanski è forse il prodotto più interessante che arriva dall'Europa dell'Est in quegli anni. Sotto la superficie di una rappresentazione in apparenza fortemente realistica, emerge da numerosi dettagli una sorta di inquietudine di fondo, un rapporto con il mondo segnato da una misteriosa minaccia onnipresente. In queste prime opere, il regista polacco esprime da un lato il carico di dolore che portano con sé il suo passato di sopravvissuto all'Olocausto, il suo presente di intellettuale vessato dal regime, e dall'altro una drammatica premonizione di quello che il destino riserverà alla sua vita negli anni successivi. Nel 1963, però, Polanski lascia la Polonia. Troppo forti sono i condizionamenti del regime sull'industria del cinema. Il regista si sposta prima in Francia e poi in Gran Bretagna, dove incontra lo scrittore e sceneggiatore Gérard Brasch. Io e Roman siamo stati amici e collaboratori per 34 anni. Abbiamo scritto insieme 10-11 film, tra cui grandi successi come Tess, Luna di Fiele o Per favore non mordermi sul collo. In realtà, il primo film che Polanski gira fuori dalla Polonia comunista è Repulsione, una sorta di viaggio allucinato nei meandri della follia di una donna che ha il volto e lo sguardo di Catherine Deneuve. Subito dopo, grazie all'influsso di Brach, Polanski svolta nella commedia. Cul-de-sac ne è il primo esempio, brillante, con venature surrealiste, fuori dagli schemi, scritto e girato con la libertà di un autore che assolutamente non sembra semplicemente al terzo film. Abbraccerà la commedia in maniera più decisa, rasentando la parodia con Per favore non mordermi sul collo. Quest'ultimo film, Per favore non mordermi sul collo, è una delle prime commedie di Polanski, forse il film più chiaro e divertente della sua carriera. C'è un motivo di natura biografica dietro questa nuova positività. Si chiama Sharon Tate. Ho conosciuto Sharon proprio sul set di un film. Che dire, era una donna meravigliosa. Non era solo splendida, era una persona sensibile, straordinaria, soprattutto incredibilmente presente nella mia vita, in ogni aspetto della mia vita. Sharon è un vero e proprio angelo biondo, bellissima, sensuale ed eterea al tempo stesso. È una modella dotata però di uno spessore intellettuale di grande fascino. È anche promettente come attrice. Quando conosce Roman Polanski, tutto fa presagire l'inizio di una splendida favola d'amore. Il caso di Polanski e della Tate è peraltro solo uno dei tanti esempi di sodalizi artistici tra regista e attrice, che a cavallo tra gli anni 60 e 70 sfocia in un matrimonio. Le muse ispiratrici di alcuni grandi nomi del cinema diventano compagne di vita e lasciano anche un segno indelebile nei film realizzati insieme. Pensate a Monica Vitti e Michelangelo Antonioni in Italia, o a Roger Vadim e Brigitte Bardot in Francia. In America fanno più scalpore e chiacchierate coppie d'attori come Liz Taylor e Richard Burton o Paul Newman e John Woodward. Polanski e la Tate sembrano però da subito una coppia diversa. La loro storia d'amore è come attraversata da una vena di malinconia che non attenua la felicità dei due innamorati, ma pare preludere al drammatico epilogo della loro vicenda. I due si sposano il 20 gennaio 1968. Roman Polanski è in cima al mondo. Nelle sale, il suo horror Rosemary's Baby è un successo straordinario. È innamorato, è felice. Decide di acquistare una villa a Hollywood, una villa che era stata di altri divi del cinema, come Cary Grant. L'ultimo proprietario è stato Terry Melcher, figlio dell'attrice Doris Day, produttore discografico, celebre per avere prodotto il disco d'esordio dei Byrds, storico gruppo pop rock della West Coast californiana. Quando Roman Polanski approda ad Hollywood, il cinema americano è nel pieno di uno straordinario rinnovamento. Lo studio system si sgretola a causa della diffusione capillare della televisione e delle mutate abitudini di vita degli americani. Si crea lo spazio per cineasti indipendenti che riescono a raggiungere con i loro film le fasce d'età più giovani, impegnate nelle prime lotte studentesche. È il momento di film come Gangster Story di Arthur Penn o di Easy Rider di Hopper. Anche il cinema di Polanski si ritaglia un posto in questo contesto, mantenendo però quella matrice europea che costituisce un indiscutibile valore aggiunto. In quell'agosto del 1969, Polanski deve andare a Londra per lavoro. Decide di andarci da solo perché Sharon è all'ottavo mese di gravidanza. Predispone tutto per la partenza. Chiede a due amici, Abigail Folger e il suo fidanzato, di stare con Sharon. È pronto a tornare per qualsiasi problema legato alla gravidanza della moglie. Di certo non può immaginare che quel male da cui era riuscito a fuggire da piccolo si ripresenterà sotto altre terribili sembianze sulla sua strada. 9 agosto 1969. A Cielo Drive, una domestica entra, come tutte le mattine, nella villa dei Polanski. La donna vede una scena che non riuscirà più a dimenticare ed esce di casa urlando. Al volante di un'auto parcheggiata fuori dalla villa c'è un giovane senza vita, ucciso da 3 colpi di pistola e da una serie di coltellate al petto. Sul prato c'è il corpo di Abigail Folger, figlia di un imprenditore, straziata da centinaia di coltellate. Vicino alla porta d'ingresso il corpo del suo fidanzato, Wojciech Frykowski, scrittore e produttore, abbattuto da 51 coltellate e da 13 colpi alla nuca, inferti con il calcio di una pistola. Dentro il cadavere di Sharon Tate. Sharon, nel 1969, ha solo 26 anni ed è una bellissima e promettente attrice. Avrebbe dovuto partorire 2 settimane dopo. La polizia la ritrova impiccata nel soggiorno. Prima è stata strangolata e accoltellata. Nei giorni successivi, nei paraggi della villa di Polanski, vengono trucidati l'imprenditore Lino LaBianca e sua moglie Rosemary, e sul suo frigorifero in cucina viene trovata la scritta Helter Skelter. Pochi giorni dopo tocca a un insegnante di musica, Gary Hinman, infine a Donald Shea, un hippie ucciso e tagliato in 9 pezzi. Gli inquirenti sono sbigottiti. Le indagini si concentrano inizialmente su un'eventuale banda di rapinatori, anche se la pista non sta in piedi. Ciò che spiazza è l'assenza di un movente. Le testimonianze dimostreranno che l'imputato è un vagabondo, un cantante e chitarrista frustrato e uno pseudofilosofo. Ma soprattutto queste testimonianze dimostreranno inequivocabilmente che è un assassino, astutamente nascosto sotto la maschera di un hippie. Le parole che avete sentito vengono pronunciate dall'avvocato Vincent Bugliosi il 24 luglio 1970. L'avvocato italo-americano è riuscito a risalire ad esecutori e mandanti dell'omicidio Tate. Si tratta di Charles Manson, il nostro secondo personaggio di oggi, un folle neonazista che si è convinto di essere una sorta di santone hippie, e la sua setta. Le testimonianze presentate in questo processo dimostreranno che c'era anche un altro movente per gli omicidi di Manson, la fanatica ossessione per Helter Skelter, un termine che ha tratto da una canzone dei Beatles. Helter Skelter è in effetti una famosa canzone dei Beatles, scritta da Paul McCartney e pubblicata nel White Album nel 1968. È una delle canzoni più aggressive e tese dei Beatles. E benché l'espressione inglese del titolo indichi innocentemente gli scivoli dei Luna Park, secondo l'avvocato Bugliosi, Charles Manson, deviato da sostanze stupefacenti, l'avrebbe interpretata come una sorta di monito dell'avvicinarsi di un'assurda guerra di razze. Dirà poi che in una visione gli erano apparsi i Beatles come i 4 angeli dell'Apocalisse, tanto da fargli credere che le loro canzoni dicessero a lui e ai suoi seguaci di prepararsi a questa guerra chiamata Helter Skelter. Il folle obiettivo che Manson si è posto con quegli omicidi è quello di farne ricadere la colpa sulla comunità dei neri d'America e scatenare la guerra civile. Una guerra tra razze. Tra poco, a Destini Incrociati, scopriremo chi è Charles Manson. Charles Manson. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Destini incrociati. Luglio 1970. L'America tiene il fiato sospeso. Inizia il processo ad uno dei più efferati criminali che la storia ricordi, Charles Manson, per alcuni l'incarnazione stessa del male, il demonio. L'avvocato Vincent Bugliosi rappresenta l'accusa e tiene il suo primo discorso davanti alla giuria. Cerchiamo di entrare insieme nel cuore di tenebra di una mente distorta e malata, di un efferato serial killer, Charles Manson. Nasce nel 1934, a Cincinnati. Sua madre si chiama Kathleen Maddox. È scappata di casa a 16 anni e si è data alla prostituzione per sopravvivere. Charles nasce da uno dei suoi rapporti occasionali. Il suo cognome, Manson, deriva proprio dall'assenza di un padre, man, uomo, e son, figlio. Cognome generico, frequentemente dato in America ai bimbi di cui si ignora l'identità del padre. Nel 1940 la madre viene arrestata per droga e Charles viene affidato agli zii che vivono nel West Virginia. Questi erano fanatici religiosi e impongono al nipote un'educazione molto dura. Charles a 12 anni scappa di casa, cerca di raggiungere la madre, la trova, ma ne viene respinto. Una delle poche cose che mia madre mi disse fu: tutto quello che ti ho detto, beh, sono tutte stronzate. Dal rapporto con mia madre ho imparato a non fidarmi di nessuno. Mai. Poco dopo, Manson viene rinchiuso in un riformatorio di Indianapolis a seguito di alcune rapine con cui cerca di procurarsi il necessario per sopravvivere. Ha inizio un periodo durissimo, in cui il ragazzo entra ed esce dai riformatori, aumentando sempre la gravità dei crimini che commette, dalla rapina a mano armata al furto di automobili. A 18 anni viene arrestato. In carcere subisce violenze sessuali da parte di detenuti più grandi di lui. Riesce però a farsi scarcerare, convincendo la corte di una reale intenzione di cambiamento. Charles Manson possedeva un'incredibile capacità oratoria. Era incredibile perché era completamente naturale, innata. Aveva una capacità di persuasione spaventosa. Eppure Manson aveva realmente intenzione di voltare pagina. Si sposa con una giovane cameriera di un fast food e da lei, nel 1955, ha un figlio, Charles Manson Jr. Mentre suo figlio è ancora neonato, però, Charles riprende la sua vita criminale e i furti d'auto. Quando viene nuovamente fermato, la moglie ottiene il divorzio. Manson viene rinchiuso in un carcere della California. Grazie alle sue brillanti, spiccate capacità dialettiche, anche in questo caso, Manson riesce a raggirare la giuria che lo deve giudicare. Ottiene così una semplice condanna agli arresti domiciliari, che comunque non rispetta. Appena rilasciato, picchia due prostitute a distanza di pochi giorni e, riconosciuto e catturato, questa volta riceve 10 anni di carcere da scontare nel penitenziario dell'isola di McNeil, dello stato di Washington, nel nord-ovest degli Stati Uniti. In quel periodo di isolamento ho riflettuto a lungo sul mondo. Le persone fuori dal carcere sono molto diverse dalle persone dentro. Dentro non si può mentire. Se menti, ti prendono a pugni. Stando dentro impari una sorta di codice di verità che fuori non esiste. Fuori si incontrano solo balle e ipocrisia. Oltre a queste riflessioni, per così dire filosofiche, Manson in carcere sviluppa due passioni. La prima è quella per ideali di stampo nazista. La seconda, decisamente più nobile, ha per oggetto la chitarra. Manson decide di diventare un musicista. Fuori dalla prigione trova però un mondo profondamente cambiato rispetto a 10 anni prima. È il 1967. Il movimento hippie si sta sviluppando e sta crescendo. Charles Manson va a San Francisco. Per un aspirante musicista è la terra promessa. Le droghe, l'LSD, la psichedelia. Sta per arrivare la mitica Summer of Love. Liberazione sessuale, nuovi sogni, nuove speranze. I ragazzi che si riversano ai rave party sono fragili e insicuri, facilmente manipolabili. Il terreno ideale per il delirante e inquietante carisma di Manson, che fonde la libertà sessantottina con le sue deliranti e visionarie tendenze nazifasciste. Charles ha bisogno degli incontri giusti. Oltre a molti giovani da affascinare con la sua torrenziale dialettica, cerca musicisti che aiutino la sua carriera. L'incontro più importante è con Dennis Wilson, batterista di una delle band culto di quell'epoca, i Beach Boys. Manson conosce Wilson perché il musicista offre un passaggio ad una delle ragazze del suo clan. Clan non è la parola giusta. Si fanno chiamare famiglia. È la famiglia Manson, quella che Charles non ha mai avuto. Un gruppo di ragazzi e ragazze pericolosamente radunati intorno alla sua lucida follia, pronti a tutto per lui, per il loro messia. I giovani che si raccolgono intorno a Manson sono molti, quasi una cinquantina. Si tratta nella maggior parte dei casi di ragazzi che, proprio come Manson, hanno avuto seri problemi familiari e un'infanzia estremamente problematica. Manson è da questi considerato un leader religioso, oltre che morale. Una di queste ragazze, Patricia Kreinwinkel, ricorda così quell'esperienza. Ho conosciuto Charlie l'anno in cui mi sono trasferita a vivere sulla spiaggia con mia sorella. L'ho conosciuto a casa di amici. Lui era là e suonava la chitarra. Era un brutto periodo per me. Mi ricordo che parlando con lui già quella sera mi sentii immediatamente meglio. Mi sentii amata. Io credevo in tutto ciò in cui lui credeva e ascoltavo precisamente tutto ciò che diceva. The Family, come viene chiamata in America, vive e sopravvive grazie a furti d'auto e piccole attività criminali. Il gruppo comincia a viaggiare attraverso la California, suonando la chitarra, drogandosi e compiendo piccoli crimini. Manson tiene in pugno il gruppo grazie all'LSD e viene venerato come un guru. Durante uno di questi spostamenti avviene l'incontro con Wilson dei Beach Boys. Questi li fa registrare alcuni pezzi nel suo studio. I brani non hanno successo. Inoltre i Beach Boys si appropriano, modificandolo, di un pezzo scritto proprio da lui. Questo fatto non fa che aumentare la sua rabbia verso il sistema e verso il mondo. Agosto 1969. A Woodstock si ritrovano in 400.000. Musica, droga, anarchia, proteste contro il Vietnam. È uno dei concerti più famosi della storia del rock. È l'anima bella della grande emancipazione giovanile della fine degli anni 60. L'anima nera, il rovescio della medaglia, esplode nella sua poderosa drammaticità negli stessi giorni, quando la furia omicida e distruttiva di Manson dilaga definitivamente. Il criminale sceglie di colpire uno dei produttori che aveva rifiutato la sua musica, un simbolo della società che non l'ha mai voluto. Si tratta di Terry Melcher. Quello che Manson non sa è che Melcher ha venduto la sua villa. Gli adepti della sua setta all'interno della casa non trovano il produttore, ma Sharon Tate e i suoi amici. La spirale di violenza ha inizio. La setta che venera Charles Manson come il principe delle tenebre celebra il proprio tragico rito. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, storing many men's soul and faith. Destini incrociati. Oggi Destini Incrociati racconta le vite di Charles Manson e di Roman Polanski, fino al terribile giorno del 9 agosto 1968. Il primo è un folle criminale che nella Summer of Love californiana di quell'anno si trasforma in un delirante guru nazista, un farneticante predicatore, che riesce a plagiare le menti di una cinquantina di ragazzi, la Manson Family. L'altro è un regista polacco scampato all'Olocausto che si è costruito un grande successo di critica e di pubblico in Occidente, in Francia, Gran Bretagna e anche negli States. Proprio negli Stati Uniti si è trasferito e vive con la splendida Sharon Tate, la donna perfetta, l'angelo biondo che ha rasserenato la sua vita liberandola dagli incubi. Ma il 9 agosto del 1968, mentre nelle sale ha appena trionfato "Per favore non mordermi sul collo", inizia un incubo più profondo. Sharon purtroppo perde tragicamente la vita per la follia di un pazzo. Polanski perde moglie, figlio e la capacità di essere felice. L'America è sconvolta. La polizia ci mette un anno per risalire a Manson. Nel 1970, grazie alle intuizioni dell'avvocato Bugliosi, può finalmente iniziare il processo a Charles Manson. Mi pare di ricordare che Polanski passò solo una volta in aula. Fu l'unica volta in cui i suoi occhi incrociarono lo sguardo demoniaco di Charles Manson. Se si osserva attentamente una foto di Charles Manson, in effetti, la prima cosa che colpisce è lo sguardo. Occhi spettrali, enormi, con una pupilla scintillante. Se osservati a lungo, sembra di vedere i cancelli dell'inferno sormontati da quella svastica che in carcere si era fatto tatuare in mezzo agli occhi, a completare l'orrore. La vicenda Manson ha rilanciato negli anni 70 la spinosa questione del satanismo nel rock. Orde di benpensanti hanno associato il delirante riferimento dello squilibrato maniaco a Helter Skelter dei Beatles a qualche diabolico significato nella musica dei Fab Four. È un problema che dovrebbe forse lasciare il tempo che trova, ma che viene costantemente tirato fuori quando qualche crimine viene commesso sventolando il vessillo di un brano musicale o di un gruppo. Io non credo a questo tipo di cose. Anche subito dopo la morte di Sharon, a causa di un film come Rosemary's Baby che avevo girato, sono state fatte illazioni circa un nostro presunto coinvolgimento in festini satanisti o cose simili. Sono stronzate. Certo, a volte la realtà viene stravolta perché ci sono artisti che per farsi pubblicità non danno il giusto peso alle lezioni del passato. Recentemente uno stronzo, il cantante dei Guns N' Roses, durante un concerto della sua band ha indossato una maglietta con una foto della faccia di Manson e ha cantato un suo pezzo. È stato un momento molto triste per me. Un altro musicista che esplicitamente fa riferimento a Charles Manson a partire dallo pseudonimo è Marilyn Manson. Il suo nome fonde bellezza e orrore in salsa pop. Marilyn Monroe e Charles Manson. La vicenda Manson, a livello giudiziario, prosegue come un braccio di ferro tra Bugliosi e il criminale. Quest'ultimo usa tutta la sua arte oratoria per cercare di anestetizzare la giuria. Questi figli che vengono da voi con i coltelli sono i vostri figli. Siete stati voi ad educarli, non io. Io li ho solo aiutati ad alzarsi in piedi. Ho fatto del mio meglio. Li ho accolti nel mio immondezzaio e ho detto loro che nell'amore non c'è niente di sbagliato. Ma questa volta riesce solo a tirare il processo per le lunghe. La sentenza arriva implacabile, il 29 marzo 1971. Condanna a morte per Manson e i suoi compagni. Pochi mesi dopo, la California abolisce la pena di morte. Per Manson e la sua famiglia arriva l'ergastolo. E Polanski? La vita e l'arte di Roman Polanski rimangono indelebilmente segnate da quel momento. Il suo cinema svolta definitivamente verso atmosfere cupe, plumbe, verso la rappresentazione di un mondo senza speranze, dominato dal caos. Il primo film dopo la strage è un adattamento di Macbeth, criticato da molti proprio per l'insostenibile negatività. Sul piano personale, Polanski incappa in una vicenda giudiziaria che lo porta ad abbandonare definitivamente gli States. Una brutta storia di sesso, che non può che far pensare ai demoni di quello che era capitato nel 1969. È il 1977. Roman partecipa a una festa a casa dell'attore Jack Nicholson. È un festino trasgressivo, in pieno stile hollywoodiano. C'è alcol, c'è droga, sesso. Il sesso, però, è questa volta una trasgressione che Polanski pagherà cara. Una ragazzina di 13 anni finisce a letto con lui. Consenziente, certo, ma solo 13 anni. Arriva la denuncia. arriva una condanna controversa. All'epoca non riuscii a capire quella condanna. Per anni l'ho trovata ingiusta. Alla fine non si era fatto male a nessuno. Quello che è successo era stato favorito dal clima che c'era intorno. Poi con gli anni ho capito bene la portata di quel che avevo fatto. Il mio universo morale, chiamiamolo così, che era andato in pezzi qualche anno prima, ha iniziato a ricostruirsi. Forse prima ero troppo vicino al bosco per vedere bene l'albero. In effetti, per chi si vede inflitta dalla vita e dal destino una punizione così severa, i confini tra il bene e il male si assottigliano sempre di più. Le debolezze dell'uomo Polanski l'hanno spinto dentro questa nuova triste vicenda, conclusasi con una fuga in Francia, con una vita da latitante, con un Oscar, quello per il capolavoro Il pianista, mai ritirato, con gli arresti domiciliari dopo un arresto in Svizzera. Intanto sono arrivati moltissimi film straordinari, gemme di una carriera che forse grazie al dolore e alla sofferenza ha saputo regalare alla società straordinarie opere sui labilissimi concetti di bene e male. Il destino ha fatto vedere a quest'uomo piccolo e con lo sguardo triste la felicità. Poi gli ha mostrato il male assoluto e non gli ha dato la forza di guardare oltre. La morte di Sharon è l'unico spartiacque della mia esistenza che conti veramente. Prima della sua scomparsa, io veleggiavo su un mare calmo, sconfinato, tutto speranza e ottimismo. Dopo cominciai ad assomigliare a mio padre, col suo pessimismo, la sua eterna insoddisfazione esistenziale, il suo profondo senso di colpa ebraico, la convinzione che la felicità non paga. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.